La mia vaga tortorella col suo canto mi tien vivo. La mia vaga tortorella col suo canto mi tien vivo. Verde tronco e chiaro rivo, fuggi ogni or sua vita bella. La mia vaga tortorella col suo canto mi tien vivo, mi tien vivo. Io la siegi e nel mio pianto che dagli occhi giù descende, bagna il becco che ha tal vanto che ogni freddo cuore accende. A un suo sguardo amor si arrende, che felice sol per quella. La mia vaga tortorella col suo canto